Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Una protesi in 3D restituisce l'udito ad una piccola paziente. Ad Obiettivo Salute il commento dell'ingegnere biomedico Luigi Iuppariello, che ha progettato il modello in 3D che è stato impiantato all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sì, in particolare presso il nostro ospedale è stata impiantata per la prima volta in Italia in ambito pediatrico una particolare protesi acustica di innesto osseo su una bambina di 4 anni e mezzo. Il cui intervento operatorio, condotto dal professore della Volpe, direttore dell'unità operativa di chirurgia protesica della Solidarietà Infantile, è stato completamente pianificato preliminarmente mediante le moderne tecniche di stampa 3D. In particolare, a partire da una tacca a stato sottile, è stato prodotto un modello tridimensionale fedelissimo alla realtà della zona di interesse, sul quale è stata effettuata una vera e propria pianificazione chirurgica preoperatoria, grazie alla quale è stato possibile stabilire la strategia opportuna operatoria più opportuna. Infine, questo modello tridimensionale è stato stampato mediante stampa 3D, di modo da permettere ai chirurghi di provare l'atto dell'innesto della protesi prima dell'intervento vero e proprio. Realizzato una sinapsi artificiale capace di riprodurre le connessioni fra le cellule nervose in modo molto simile a quanto avviene naturalmente nel cervello. A Obiettivo Salute il professor Alberto Salleo dell'Università di Stanford, che ha collaborato al progetto. In pratica abbiamo dimostrato un dispositivo che trasforma un segnale chimico, il rilascio della molecola dopamina, in un segnale elettronico. La dopamina è un neurotrasmettitore, cioè una molecola che i neuroni usano per comunicare fra loro e viene rilasciata nello spazio che esiste fra i neuroni, che si chiama sinapsi. Un aspetto innovativo è che il nostro dispositivo replica una proprietà molto importante delle sinapsi naturali, cioè l'effetto memoria. Quindi uno può immaginare che questo dispositivo possa essere usato per sostituire sinapsi naturali che sono state danneggiate da malattie neurodegenerative. Un aspetto per me molto bello, ma non prettamente scientifico, di questo lavoro è che è il frutto di una collaborazione fra tre gruppi che stanno su due continenti. Ed è stato veramente bello vedere come gli studenti si sono spostati da un laboratorio all'altro, hanno imparato uno dall'altra e alla fine il tutto è culminato con 2 settimane molto intense nel laboratorio di Francesca Santoro all'IIT a Napoli, dove abbiamo ottenuto i risultati più importanti. Torniamo in Italia. Uno studio pubblicato dall'Università di Milano e dall'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dimostra come l'intelligenza artificiale aiuti nella diagnosi dei tumori dell'osso. A Obiettivo Salute il commento del professor Luca Sconfienza, direttore della radiologia del Galeazzi e professore all'Università di Milano, che ha partecipato allo studio. L'intelligenza artificiale è ormai una realtà consolidata in medicina e anche in ambito radiologico. Uno studio che abbiamo condotto ci ha consentito di dimostrare come il computer, in particolare l'applicazione di intelligenza artificiale, aiutino a fare una diagnosi precisa dei tumori dell'osso con una base cartilaginea, che si chiamano condrosarcomi, e aiutino appunto a migliorare l'approccio al paziente, quindi consentendo una diagnosi più precisa e un trattamento più mirato. E di intelligenza artificiale parleremo proprio con il professor Sconfienza nei nostri incontri a tu per tu, che potete trovare come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.